Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quando la mattina mi vedeva, m'aspettava, faceva un grugnito, si toccava il naso e lo indicava. Poi indicava me e diceva Porceddu. Sì, mi guardava e mi diceva Porceddu. Ogni mattina, ogni pomeriggio. Sono Adriano Filopente di Masserano, ma vivo a Campagnola di Brugine in Veneto. Ho 48 anni, faccio lo chef. Ho avuto l'avventura di girare un po' il mondo e adesso vivo e lavoro ad Abano Terme. La genetica mi ha donato delle occhiaie pronunciate e ogni volta che entravo in classe sentivo dire «Ecco ragazzi, arriva Rocky, Elisa». Vecchietto vicino a casa dei miei nonni, magro, secchissimo, beveva caffè corretto grappa. Un cucchiaino lui, uno il cane. Quando mi vedeva, mi salutava dandomi sempre del mandrogno, sempre, Daniele. Alle elementari e alle medie ero tendenzialmente un pochino sottopeso, causa iperattività. Per 8 anni mi sono portato dietro un nomignolo di Via col vento, Dennis. 349-238-6666, ci sono dei tormentoni che sono dei nomignoli, che sono dei diminutivi o addirittura degli appellativi anche più ampi di un nome solo, una frase magari, una locuzione, che è capitato ci portassimo addosso per un motivo fisico, per qualcosa che c'era successo o addirittura per motivi di famiglia, perché la nostra famiglia era chiamata così e quindi noi venivamo chiamati così. 349-238-6666, il profilo Facebook, se avete un profilo Facebook e ce l'avete aperto e voi siete qui Radio 24, se invece avete un profilo Twitter magari volete smanettare sul vostro telefonino, il profilo nostro è Voi siete qui R24. L'hashtag di oggi è tormentoni, direi, ma potete anche usare l'hashtag Voi siete qui, se avete voglia. Questa storia, la storia di oggi, la storia di Adriano, parla di quello, ma non parla solo di quello. Cioè, parla di un ragazzino, cioè lui, che da giovane veniva chiamato così da questo tizio che tutte le mattine lo aspettava davanti alla porta, perché lui ci passava per andare a scuola, e gli diceva Porceddu tutte le mattine, andando e tornando. Una cosa che ti segna. Questa però non è una storia che, diciamo, non è una storia buonista, perché Adriano cresce e smette di essere un porceddu e in qualche modo ci si vendica. 349-238-6666. Tra l'altro, a proposito di vendette, nella seconda parte voglio leggervi una storia che ha a che fare con questa, che è una mail che mi è arrivata questa mattina, in cui c'è quello che inventava questi nomignoli. C'è sempre quello che inventava i nomignoli in ogni paese, in ogni gruppo, che in questo caso però si nascondeva un po' e vabbè, di fatto in questa lettera lui chiede scusa. 349-238-6666, l'ho già detto. Ieri sera, non c'entra nulla, però un po' c'entra invece col fatto di dare nomignoli. Ho partecipato a una serata molto particolare in cui venivano invitate delle persone a parlare per 3 minuti massimo di un tema. Ogni volta che fanno questo incontro gli organizzatori danno un tema diverso e la serata di ieri aveva come tema l'intelligenza. Quindi c'erano diverse persone di diversi campi, diversi settori che dicevano che cosa secondo loro è l'intelligenza e cercavano di farlo in 3 minuti. Questo è il formato della serata. A un certo punto è salito sul... non c'era un palco, è andato a parlare un ragazzo che fa il grafico, non ricordo più come si chiama, che ha detto «Io non so cosa sia l'intelligenza, però nella vita ho fatto un sacco di cose stupide e voglio raccontarvele». E ha elencato tutte le cose stupide che ha fatto, che erano dal licenziarsi da una casa editrice molto grande che lo pagava molto bene per andare a lavorare per un festival di grafica che di fatto non è stato fatto ed è stato cacciato dopo pochi giorni, il fatto di nominare le sue società con dei nomi assurdi quando tutte le società simili la sua invece avevano nomi altisonanti, e faceva un lungo elenco di cose stupide che ha fatto e finiva così il ragionamento. Diceva: vi do un consiglio, fate un sacco di cose stupide perché alla lunga tutti gli altri penseranno che siete molto intelligenti. Non so se questa cosa è vera, però ci penso da ieri sera e ci ho ripensato quando stamattina ho riguardato la storia di Adriano e il fatto che venisse chiamato in maniera stupida da qualcuno e che lui alla fine un po' in parte si sia vendicato. Se avevate un nomignolo, se venivate chiamati come ad esempio Cristina che scrive: per me è stato un periodo abbastanza corto ma molto fastidioso, quello in cui arrivavo in classe, iniziavo e tutti iniziavano con la cantilena «Arriva Cristina e di lei scoprirai». Questa cos'è? Una roba Cristina D'Avena, credo, giusto? Cristina D'Avena, sì. Canzoni con canta con Cristina, una roba del genere. Invece vorrei capire il messaggio di dove Dennis. No, Dennis, l'ho cancellato. Quello che diceva che l'anziano gli dava del mandrogno. Mandrogno cosa sono? Credo che siano gli alessandrini, forse. È una cosa piemontese, però. Credo che sia, forse gli alessandrini o i tortonesi vengono chiamati mandrogno, ma sicuramente qualcuno lo saprà meglio di me. 349-238-6666. Non lo chiamava mandrogno il tizio, lo chiamava porceddu. E Adriano, con tutta la calma, con gli anni, si è vendicato. Non più di 3 anni fa, passai alcuni giorni al paese natio, dove a volte mi reco di nascosto, solo per realizzare il preciso desiderio di farmi un giro per i boschi, senza dover incontrare qualcuno che mi chieda di me e tutti i bla bla bla che si fanno normalmente in queste occasioni. Durante una di queste visite c'era, mi pare, una specie di fiera al borgo antico, il centro storico del paese. Mentre camminavo, interrotto da varia gente che non vedevo da un pezzo e che mi fermava per sapere come stavo, dove andavo, quanti figli avessi, vidi giungere, dal fondo della via, un tale che io riconobbi all'istante. Lui mi guardò e subito si gettò tra la gente, cercando di evitarmi. Io lo lasciai fare, e anch'io lo evitai, ma per una buona mezz'ora non mi si tolse il sorriso dalla bocca, perché mi tornò alla mente questa storia, che è successa così come ve la racconto, e che è stata forse la mia prima nemesi, che avevo però completamente cancellato dalla memoria, manco fosse un sogno. Quando ho incrociato lo sguardo di quella persona mi è sembrata assolutamente ancora all'interno di un incubo, perché le persone che normalmente incontro mi si facevano vicine per salutarmi, per chiedere novità, e lui invece si è proprio nascosto e in me ha proprio suscitato una risata, perché mi è venuto alla mente questo episodio che avevo rimosso. Facciamo un passo indietro. Io ero un bambino atipico. Avevo il cognome bizzarro di uno che non era del posto, ma al contempo la famiglia di mia madre era masseranese da almeno 4 generazioni. Per parte di padre provenivo da una famiglia di immigrati veneti, politicizzata, antifascista, antimonarchica, anticlericale, comunista e anticomunista, socialista e antisocialista, che aveva partecipato attivamente alla resistenza e nella cui casa non si esibivano simboli di sorta. Non c'era nemmeno una croce appesa al muro, bensì un unico ritratto d'un Cristo splendente e vagamente perplesso che ancora porto con me. Vivevano in una povera casa 600esca, frequentata da una serie impressionante di persone d'ogni tipo, soprattutto ambulanti, che trovavano sempre da mio nonno un buon bicchiere di vino, e dove il prete, che a quei tempi faceva visita politica, entrava solo se si spretava un pochino e si sedeva a tavola con tutti noi. Io passavo da loro le estati ed ero il giovane che passava ore ad ascoltare racconti di partigiani e di guerre fantastiche. La maggior parte dei miei amici all'epoca aveva almeno 70 anni. Io, quando scendevo in paese, mi fermavo a parlare un po' con tutti e quegli anziani di allora erano felici di raccontarmi le loro storie. Conoscevo almeno una ventina di quei personaggi e con uno di loro, qualche anno dopo, mi ritrovai davanti all'ospizio del paese che lo ospitava a suonare la chitarra ed io, ormai già ragazzo, gli facevo sentire i Clash, mentre lui mi insegnava a suonare quelle canzoni degli anni 30 che parlavano di minatori e di tragedie marine. In quegli anni il resto dei miei coetanei aveva cominciato ad apprezzarmi e a non guardarmi più di traverso, manco fossi una bestia rara. Ma la storia che voglio raccontare riguarda il tizio che mi evitò quel giorno per strada. She's the kind of girl who smashes herself down in the night. She's the kind of girl who fractures her mind till it's light. She'll break her own heart, and you know that she'll break your heart. Ogni mattina, andando a scuola, passavo davanti a casa di Eliseo e di Velia, poi di Willy e di Olga, del giudice Sossi e del Carlino, e poi a quella del nonno con la pipa che mi aspettava sempre fuori sulla strada fumando. All'angolo della via, dopo il viale, subito prima della tabaccheria, mi aspettava sempre lui, il tizio di cui parlavo all'inizio, quello che incontrai anni dopo nelle vie del mio paese e che mi evitò. Quando la mattina mi vedeva apparire, m'aspettava e faceva un grugnito. Si toccava il naso e, indicandomi, diceva «Porceddu». Sì, mi guardava e mi diceva «Porceddu». Ogni mattina, ore 7:50, «Porceddu». Ogni pomeriggio, ore 13:20, Porceddu, per anni e anni, dal 1971 al 1976. Praticamente una condanna. Bisogna dire che avevo ed ho il naso schiacciato, un po' grosso e anche un po' scentrato. E per un bambino è automatico associarlo al naso di un porco. Ma farlo ogni mattina, per anni e anni, è un po' troppo. E poi lui aveva 2 o 3 anni più di me, ne avevo paura e soffrivo maledettamente. Era la mia tortura anche incontrarlo in giro per il paese, perché quel suono, quel gesto e quella parola, Porceddu, si facevano sentire. E tutti quelli che sentivano immancabilmente ridevano. Questo mi isolò ancora di più ed ebbi amici sempre più anziani. Comparivo tra il gruppo di coetanei sporadicamente, ma sempre solo per le partite di calcio. Per me c'era la paura perché nel paese tutti ci conoscevamo con un soprannome e se quel soprannome, se quel porconimo, diciamo così, fosse passato sarei rimasto Porceddu per tutta la vita, per cui ero terrorizzato doppiamente. Questo ricordo, avevo una paura tremenda ogni mattina quando andavo a scuola ed ero assolutamente terrorizzato. Solo che la natura fa così, perché quando si è mai visto un maiale che diventa un cigno di quasi 2 metri, con un'apertura alare che se vuole si stacca da terra e fa un giretto in volo, e per di più dotato di una cattiveria e di una stronzaggine che metà bastava? Beh, a me è successo così. Di colpo, un giorno, ero diventato un altro. Una volta arrivo al campetto dell'oratorio, quello che prima dell'editto di Napoleone era il cimitero del paese. Così noi, ogni tanto, si prendeva a calci una falange o un pezzetto di spina dorsale di chissà chi. Quel giorno avevano bisogno di un centrocampista e io, che ho sempre giocato portiere, quando vedo e riconosco, ma non a mia volta riconosciuto, nella squadra avversaria, quel tale che per anni e anni mi aveva vessato con quel Porceddu, decido d'impeto che non ci sono storie e che il centrocampista sono io. Quell'altro nel frattempo era rimasto tale e quale gli anni prima, piccolo, brutto, decisamente indifeso, privo d'ogni virtù adolescenziale. Praticamente la vittima perfetta. Io invece avevo cambiato anche nome. In paese per tutti ero il filo, per di più ero l'amico di quello cattivo. Quando la partita iniziò, incrociai gli occhi dell'avversario di sempre. Lui non sembrava riconoscermi. Dopo pochi minuti, durante i quali giochicchiai così come potevo, mi fu finalmente a tiro e lì gli mollai un calcione tremendo. Lo guardai cadere torcendosi prima in aria per poi rotolare a terra, immaginando cadesse in una vecchia tomba che si era riaperta. E mentre a terra si contorceva dal dolore, mi avvicinai, lo guardai fisso, feci in modo che mi sentissi e grugnii fortissimo. Mi toccai il naso e dissi: Porceddu. Lui strabuzzò gli occhi e mi riconobbe. Lui tornò a casa subito e non lo rividi più fino a quel pomeriggio del 2008, quando ebbi la sicurezza che io l'avevo dimenticato, ma restavo nei suoi sogni come un incubo. I guess I just must be a daredevil. I don't feel anything until I smash it up. I'm caught on the cold, caught on the hot, not so with the warmer lot, and all I want's a car. Mi chiamo Marianna e il soprannome era tutta panna, mamma mia, già sono odiosi i tormentoni se poi sono privi di fantasia. Venivo chiamata a tavola da surf e vabbè, chissà perché, povera Elisa, ma dice: a 13 anni, dopo essere diventata donna, mi è arrivata in dono una bella terza abbondante. Per i capelli, dice Silvio, i discorsi, ero detto sflescio. Cosa vuol dire sflescio? Sarà una forma dialettale. Secondo me è delle tue parti, Paolino, eh? Cioè, non Pesaro, non Marche, però potrebbe essere Emilia Romagna, una roba romagnola. Però magari mi sbaglio. Mi chiamavano Biafra, perché ero un po' slim. Lo trovavo ingiusto, e te credo. A 10 anni pesavo 25 kg. Adesso so che ero sottopeso, ma odio il suono di quella parola. E poi qualcuno mi scrive, riferito ad Adriano: e perché non l'ha mai suonato, letteralmente? A questo punto lo chiediamo direttamente ad Adriano. Pronto, Adriano? Ciao, come stai? Ciao, Matteo? Bene, tu come stai? Ah, da Dio, benissimo, per fortuna. Grazie. Senti, tu non l'hai suonato, però un calcio gliel'hai dato in realtà. Beh, io guarda, ho aspettato che la natura facesse il suo corso. Non l'ho mai suonato perché avevo paura di lui, perché era più grande, come ti ho detto, e quando sei bambino, sai, uno più grande ha già un fascino particolare già solo per il fatto che è più di grande. Essere nato prima, no? Certo. Per questo era proprio cattivello e io ne ero terrorizzato, diciamo così, però... Però poi ha avuto diciamo così, quello che meritava, no? Senti, quella parola lì, no? Perché notavo dei messaggi che arrivavano, che quelle parole che magari sono innocenti, appunto, come la parola porceddu, che tra l'altro, perché porceddu? È dialetto, ma non è sardo, però. No, è sardo, non so che dirti, forse lui era nipote di un granatiere di Sardegna, non lo Ok. Porceddu era. Però, appunto, queste parole che vengono utilizzate in maniera dispregiativa o a mo' di tormentoni, poi risultano quasi indigeste alle persone a cui vengono attaccate. Tu hai avuto problemi poi con quel termine, facendo anche tra l'altro un mestiere per cui ti trovi probabilmente a lavorare. No, in realtà no, ti ripeto, dopo la vicenda del calcio, ma lì era già passato del tempo, io ho completamente rimosso dalla mia mente la vicenda, okay. Per cui non ricordavo più, però è vero che se ti resta appiccicato un nome sbagliato, rischi di essere visto come quello che non sei, insomma, perché poi ci si trasforma nella vita, no? E a proposito di trasformazione, Adriano, tu, per questo dicevo, per il mestiere che fai, forse ti è capitato di lavorarci con del porceddu, tu sei un cuoco, uno chef, mi dicevi prima, anche se non ti piace il termine chef. No, a me piace il termine artigiano di cucina, di chef sono stellati, io ho la luna, è un po' diverso. Sì, ho avuto a che fare più volte con, diciamo così, il mobbing. Io stesso in un certo periodo della vita ho reagito alla violenza con violenza. Poi ho capito finalmente, crescendo, come bisogna fare. Io lavoro per essere felice, chi lavora con me deve essere felice di farlo. E questo, insomma, è il cammino che io sto cercando di seguire e che mi consente di fare bene, perché poi è ciò che sei che determina quello che fai e non il contrario, no? Sì, sì, assolutamente, sono d'accordissimo. Anche se poi è quello che fai che dice chi sei, nel senso che un conto è far finta di dire delle robe, un conto poi è farle e metterle in pratica, no? Generalmente. A proposito, però, appunto, del tuo lavoro, il fatto di essere quello che comanda in cucina, no? Nel senso che lo chef è quello che dà gli ordini, giusto o sbaglio? Sì, tu sì. Quante persone hai che lavorano con te o per te, insomma, in questo momento? Beh, ci sono tre persone che lavorano per me in cucina. E ci sono anche poi quelli che lavorano in sala. Io quello che tendo a fare, e cerco di fare in modo che sia così, è innanzitutto di eliminare la barriera tra sala e cucina, che c'è, diciamo così, una inimicizia storica. Io mi sento al servizio della sala, che a sua volta è il servizio del cliente. Chi lavora con me deve essere tranquillo di lavorare in serenità. Scusami, questa non la sapevo. C'è un'inimicizia storica tra chi sta in cucina e chi serve ai tavoli? Verosimilmente è dovuta al fatto che spesso chi sta ai tavoli riceve le mance, no? Mentre la cucina fa fatica a riceverne, immagino. Quando ci sono. No? Senti, e perché le cucine vengono? Vabbè, adesso ne parlavamo prima, va molto di moda, no? La figura del cuoco, sono dappertutto, sono delle star, tutti ne parlano, pagine di giornale, eccetera, eccetera. Ma perché la cucina è descritta da tutti come un campo di battaglia, è un luogo infernale dove si fa una grande fatica fisica, quello lo immagino, c'è il fuoco, c'è il calore, ma c'è una forma davvero quasi di competitività costante con una tensione altissima, è vero oppure no? Sì, è spesso vero, adesso non esattamente nell'ambiente che dirigo io quello che cerco assolutamente di evitare. Considera che nella cucina si lavora con il fuoco, con i coltelli, con il sangue degli animali a volte, per cui sei veramente all'interno di una specie di epica gigantesca, no? Uh-huh. E spesso la figura dominante dello chef è dominata dalla paura del proprio lavoro, questo è quello che io credo di aver capito, no? La paura della non riuscita, la paura di non tenere assieme gli altri, e se ti fai vincere o prendere da questa cosa, vivi una vita infelice tu e la fai vivere infelice anche agli altri. In quanti posti sei stato per il tuo lavoro? Io ho avuto fortuna, sono partito giovanissimo, a 15 anni ero già in Grecia, perché una volta si usava così, una volta dovevi far vedere che eri uno che voleva lavorare, insomma. Sì. E poi ho lavorato un po' in tutti i continenti tranne l'Australia. Il più a lungo sono rimasto in America Latina per 5 anni in Costa Rica, con una parentesi anteriore in Nicaragua, dove durante il sandinismo ho appoggiato un progetto di volontariato e di sviluppo che è naufragato. E poi ho fatto un passaggio in Asia, in Europa ho lavorato Spagna, Inghilterra, la Grecia te l'ho già detto, sì. Le Canarie. Senti, e poi in Sudafrica per un anno favoloso. E adesso invece in Sudafrica anche? E in ogni luogo tu portavi la tua cucina o la rendevi, come dire, la mischiavi con quella del luogo in cui stavi? Ma io sono stato fortunato per il fatto che la cucina italiana ha un grande successo in tutto il mondo, e nel periodo in cui mi sono mosso la cucina italiana si stava trasformando, per cui anche se non avevi gli ingredienti tipici, avevi un po' di fantasia, avevi la possibilità, utilizzando magari prodotti locali, di dare quell'idea di italianità, che è comunque quello che ci contraddistingue alla fine. Senti, invece poi ti saluto, sei in cucina in questo momento, sei al lavoro. Sì, sono fuori, però sì, sono al lavoro. Qual è il menù di questa sera? Ah, noi abbiamo una carta favolosa, adesso se te lo elenco tutto... Dimmene tre, che non ce la facciamo, che c'è la borsa. Allora, guarda, ti posso dire che abbiamo un baccalà mantecato con un rosti di patate e una maionese di zucca tra gli antipasti. Tra i primi ti posso nominare dei maltagliati di patate con i gamberi e la crema di capesante. E tra i secondi, il ganascino di manzo al cioccolato. Senti, dimmi dov'è, come si chiama, così che qualcuno... Il posto è la Cova di Abano Terme, è il miglior ristorante che c'è qua. Adriano, ti ringrazio per il menù e per la storia, per la chiacchierata. In bocca al lupo. Ciao, buona giornata, ciao, grazie ciao, mille. Ciao. Mi confermano che i mandrogni sono chiamati gli abitanti di Alessandria, del sobborgo Mandrogne. Assomiglia vagamente a Paul Young, Adriano, perlomeno nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi Siete Qui. Paul Young giovane e quando era magro, adesso l'ho visto recentemente, mi sembra un po' imbalsito. Adriano invece è seduto sui gradini di una casa, che è una casa in legno, rossa con dei profili bianchi e il tetto bianco è sul... Tra l'altro si vede da uno spigolo un'altra casettina in legno e delle piante dietro e una bicicletta. Secondo me, a occhio e croce, è in un posto tipo la Svezia o l'Olanda. Porceddu. Sostantivo singolare maschile. Dialetto sardo. Il piccolo del maiale, il figlio della scrofa. Maialino. Fantastico. Dialetto sardo. Ringraziamo Elisa Piras per la consulenza sul sardo che ci ha dato per la puntata di oggi per Porceddu. Elisa Piras, che è della zona di Sassari, mi pare. No, di dov'è? Comunque Sardegna. Anche se dire Sardegna, insomma, non è dire, anche perché credo, mi pare che il Porceddu venga chiamato in diversi modi in base alle diverse zone della Sardegna. 349-238-6666, nomignoli, tormentoni o soprannomi dati che sono rimasti attaccati addosso e in qualche modo vi hanno segnato al punto da farvi venire in mente di scrivere una storia, come è successo nel caso di Adriano, su quel tizio che tutte le mattine alle 7:20 e all'1:20 del pomeriggio, quando lui ci passava davanti, gli diceva Porceddu. A me e mio fratello ci chiamavano i Rockets, cantanti anni 80, come no, tutti pelati perché ce li tagliavamo corti. Io venivo chiamato Fontanella perché sudavo molto, ho sofferto tanto. Massimo, lo immagino, cioè fa un po' ridere, però lo immagino. Cioè, nel senso che comunque quello che dà i nomignoli è sempre un bastardo. E il bastardo un po' fa ridere, però è sbagliato. Alle scuole medie mi chiamavano Pedro per la peluria sotto il naso che non volevo tagliare. Perché Pedro? Perché è un ipotetico messicano? Niente, io me lo immagino così, questo che dai nomi. È un bastardo che se ne sta un po' in disparte, che però è bravo a cogliere qualche dettaglio, in questo caso piccolo, in altri magari più grandi, che hanno un potere comico, un potere umoristico, in qualche modo. È il caso di Enrico, che oggi mi ha scritto questa mail, questa mattina, avendo letto sul profilo Facebook qual era l'argomento della puntata e della storia di Adriano, e ha mandato una mail che magari pubblico. Ma sì, dai, lo pubblichiamo sul profilo Facebook, lo faccio subito, però prima ve la leggo. Che è di fatto una missione di colpa, come a dire: sì, io sono uno di quelli che dava i soprannomi e voglio chiedere scusa. Caro Matteo, approfitto per la prima volta del tuo programma per liberarmi di un peso piccolo piccolo che però mi porto dietro da anni. Ho 43 anni, sono un informatico, ho una moglie e un figlio di 6. Sono una persona normale con una vita normale. Non ho mai fatto del male a nessuno e rispetto le regole del vivere sociale. L'argomento della puntata di oggi, però, mi ha tirato fuori un vecchio ricordo che oggi voglio confessare, sperando di liberarmene. Io, a scuola, ero quello che inventava soprannomi e tormentoni per tutti, che fossero divertenti o terribile. L'autore ero sempre io. E la maggior parte delle volte lo facevo senza dichiarare che io fossi l'inventore. Lo usavo come modo per vendicarmi di qualcuno che non mi piaceva o che magari mi aveva fatto qualcosa di sgarbato. Semplicemente accadeva così che ad un certo punto apparivano questi nomignoli, così, dal nulla. E tutti, a scuola o all'oratorio o al campo sportivo, iniziavano ad usarlo per chiamare questo o quel compagno. Alcuni nomignoli so che sono rimasti attaccati a quelle persone ancora adesso e un po' me ne pento. Vorrei quindi approfittarne per chiedere scusa a tutti quelli che sono entrati nel mio campo di azione. In ordine, a partire da Giovanni, che ho soprannominato il Mitraglia perché balbettava. Sergio, che chiamavamo Scusate perché era timido e chiedeva sempre scusa. Sandro, che chiamavo Sandrocan perché urlava quando entrava nei bar. Piera, che avevo soprannominato Vulcano perché aveva molti brufoli sul viso. E poi Antonella, chiamata Lavatrice perché quando baciava roteava la lingua come una centrifuga e forse non era nemmeno vero. E poi Ettore, detto Apecar perché da bambino era stato investito da un'ape. Potrei dirli tutti, ma l'elenco sarebbe lunghissimo. Spero che questo mio modo di inventarmi nomignoli non sia stato percepito da nessuno come una forma di persecuzione. Ti ringrazio comunque per l'opportunità. Enrico, detto Mezza Volta. Per lo più pioverà questo fine settimana, mi spiace dirvelo, ma le previsioni dicono così. Per lo più, nel senso che ci saranno delle zone dell'Italia in cui non lo farà, ad esempio il nord-ovest di domenica e un po' di sud il sabato, però per lo più pioverà. E allora fate una cosa, anzi fate due cose. Andate sul sito di Radio 24, nella sezione podcast, e scaricatevi tutti i podcast del programma, quelli scaricabili, cioè gli ultimi 5. Se c'è ogni tanto ancora qualcuno me lo chiede, se ci sono delle puntate invece molto più vecchie che volete ascoltarvi, non potete scaricarvele, ma potete ascoltarvele online direttamente, rimanendo collegati. E visto che più o meno ormai tutti hanno una connessione flat, cliccate play e ve l'ascoltate. Altrimenti andate sul sito su iTunes e vi abbonate gratuitamente, quello ve le scarica automaticamente le ultime 5 puntate. E poi fate una cosa, dopo esservi fatto, non so per quale motivo esattamente, una bella scorpacciata di tutti i podcast di Voi Siete Qui, prendetevi 5 minuti e cercate di riflettere su un piccolo episodio della vostra vita che racconti qualcosa di voi, che magari racconti non tutto, ma qualcosa, una piccola parte, anche una parte che non riconoscete più, una parte che non volete nemmeno ammettere. La buttate giù in una pagina e la inviate a voisietequi@radio24.it e noi continuiamo a raccontare le vostre storie. Gli ultimi messaggi che sono arrivati sono per lo più teneri. Mia nonna ha iniziato a chiamarmi Bigia perché a 3 anni tornavo dall'asilo dove avevano insegnato a leggere e a scrivere la parola Bigio e io continuavo a ripeterla. Da allora, dal 1963, io sono per tutti Bigia. Grazie a Bigia, grazie a Tiziano Bonini, che anche se non è qui ma è come se lo fosse, a Paolino Corleoni e a Margherita Ina. Grazie ad Adriano, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Alessandra, vivo a Parma, la storia di lunedì è la mia e parla di appuntamenti molto insoliti avvenuti in un giorno per lo più odiato da tutti. Questa è la mia storia e io sono qui.